gambe tenute soglie, over Silla se tragge spirti rei. Ordua, che sei nel foglio ultima impresa, per l'uccidio di lei vedrem qual sia. Vincerem, se dovessi a mille calpe anche spiantar dal sol. Non ti scoprir, nell'altamente impresso, ti stia come ti apporre. Apporre Orlando, ignoto son, ne sa che esso sia. Tu, poi che tal ti serve, e cauto sempre, tu asconda l'esser tu. Saggio consigli, eseguirò guardingo. Entriamo intanto. A gran cuore appartiene intraprender gran cose e sperar bene.